19:20 Costanza. E innanzitutto un saluto a Graziella Montanari, che ho incontrato in cucina qui dell'albergo. E Graziella è una donna molto particolare, è una pranoterapeuta, una sensitiva seria e anche una cuoca molto molto speciale. E difatti ci racconterà di alcuni suoi dolci, in particolar modo natalizi, visto che più o meno siamo vicini a Natale, che lei appunto prepara e che dà solo a certe persone, usando determinati ingredienti. E io direi, Federica, che possiamo ascoltare Graziella, ok? E questo è il panettone, vero, di Natale? È il panone. Come lo fa questo panone? Cioè, come lo fa? Qual è l'ingrediente principale? Ah, ce ne sono tanti, perché io ho messo anche il sapore. Al sapore sarebbe il mosto del vino con delle mele cotogne, bollite con delle mele. E quindi tra il mangiare e la, come dire, l'essere sensitivi, la magia, la c'è un filo che li unisce, secondo lei? Sì, forse sì. Forse sì. Sì. C'è un filo perché lo si fa proprio, ha capito, con passione. Sì. Invece quando alcuni fanno lo stesso dolce poi non riescono. La ciambella col buco viene un ciambellone, vedi alcune che la fanno diverse. Quindi l'energia passa anche nel cibo, sì. L'energia di una persona come la sua. Sì, perché anche quando si mangia con Reiki si mette le mani, qualsiasi cibo dopo non fa male. E quindi lei lo fa questo rito anche quando cucina questi panoni? Questa tecnica Reiki, sì. L'adotta? Sì. Sì. Sì, sì. Ecco, io so che lei ha questa dote particolare che è quella non solo di cucinare questi cibi un po' speciali, ma anche di vedere chiudendo gli occhi. Sì, cosa io vuol dire questo? Chiudendo gli occhi, e le spiego, vedo, ma vedo anche se c'è un chakra chiuso, un punto energetico chiuso. E come fa a vederlo chiudendo gli occhi? Cosa si vede? Cosa vuol dire vedere chiudendo gli occhi? Allora le spiego, perché io la persona guardo dentro l'anima, capito? Attraverso gli occhi? Sì, sì, ci ho sempre preso, perché gli occhi non mentono mai. Anche se noi non dobbiamo mai guardare gli occhi, dobbiamo guardare terzo occhio. E cioè? Tutto. Ma dell'altra persona? Sì, quando lei guarda non deve mai guardare gli occhi. Ma dai, cioè guarda tipo la fronte della persona che ha davanti? Sì. Ah, non sapevo. Qui è il cervelletto, questi sono i punti da guardare, ma mai negli occhi. Quindi guardare, scusi, il terzo occhio, diciamo, per capire la persona che si ha di fronte? No, perché così uno non prende negatività. Quindi ecco, l'energia, diciamo, dei morti ha un colore diverso? Sì, sì. Rossa? No. Lei non riesce proprio a vedere. È rossa rossa energia del dei morti, mentre quella delle persone in vita non è rossa così. Ha vari colori. Sì. Ma un conto, mi scusi l'energia, un conto che lei proprio, quando gli ho dato delle fotografie, lei di ogni persona sì, mi ha detto io vedo delle cose di vita. Ma come fa a vederle? Allora le spiego. Io ho avuto, adesso il Padre Pio non è più come prima, perché prima c'era il pavimento dove lui camminava. E si sentiva dell'energia. Okay. Adesso c'è il vetro, non si sente più niente. Io non ci vado più, perché dicono che ci va poca gente, ma se lo lasciamo dove era prima era meglio, certo, per me. Io quell'oro non mi piace su Padre Pio. Mamma mia. Che lui non lo voleva. Vissuto una miseria, cosa, certo, vai a fare in oro? Certo. Boh, tornavo per capire io proprio. Quando ha una fotografia in mano, come fa a dire dei particolari della vita di queste persone? Particolari? L'ho detto, è successo tutto con Padre Pio e l'UFO. Ecco, allora, quando ha iniziato lei ad avere queste sensibilità più fina, più estesa? Ma io l'ho avuto dal 50 anni, perché è del 93. Quindi un consiglio che darebbe a persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo e vedere col terzo occhio, vedere con gli occhi chiusi, quali potrebbe bisogna essere? Bisogna avvicinarsi al cristianesimo. Ah. Le volevo chiedere una cosa, vedo tante pietre, no? Lei sì. ha questo contatto anche con le pietre? Sì, perché io amo le pietre, perché le pietre, ricordatevelo, se ve lo regalano, fate attenzione chi ve le dà, perché le pietre vengono programmate. Bello. Ah, bello, infatti. Io quando do a quelle ragazze che devono essere promosse, una doveva essere promossa dottore in economia e commercio, è stata promossa col 109, però le ho dato le pietre caricate. Come si fa a caricare una pietra? Ah, bisogna girare, chiamare la dea dei minerali. Ah, la dea dei minerali. Ha un nome, la dea dei minerali. Nome. Questo per esempio sa cos'è? Il quarzo, le mani. Riesce a sugare quello che poi andrebbero a estrarre e far del male, invece riesce a seccarlo. Ma programmarle cosa vuol dire? Quindi viene chiamata la dea delle pietre, che ha un nome? Si gira, si punta, poi si parla, bisogna programmarle. E poi va regalata. Sì, ma però bisogna programmarli in bene. Ah no, appunto, quindi possono essere programmate anche in male. Esatto, allora bisogna fare attenzione. Specialmente l'ambra, perché l'ambra è una resina, accetta subito quel che dici. Ah, ma quello che ho indosso io. Ah. Quella che è te. Quella che ho io qua. Sì. Sì. E una pietra invece che aumenta la femminilità, quale può essere? O aiuta la femminilità? Non so, perché noi abbiamo l'amore, l'amore è quarzo rosa. L'amore. Infatti chi soffre d'amore, se mette una mano sul quarzo rosa, urla. L'ametista io lo do per dormire, perché quello è per dormire. Per esempio in turchese lei ha la febbre e la mette qua, sul terzo, e subito va giù la febbre. Quindi ecco, non esiste una pietra cattiva, è solo chi le programma. Sì, solo chi le programma. Cambia, come dire, la positività, esatto. O meno. Poi i cristalli non si possono dare chi ha avuto il tumore. Perché? Perché loro danno energia alle cellule. Ah, danno energia ai cristalli. Dunque meglio di no, in effetti. Tormalina nera. Nera. Non la puoi portare al collo, mi raccomando, nel dito e nel collo, Ok. Capito? Puoi metterla anche in tasca. Pezzetto in tasca, tieni lontano la negatività. E poi insegno il cristallo come bisogna. Insomma, è un essere umano anche lui, perché vive sotto terra. Essere umano è una cosa che viene dalla terra. Quindi vive. Ecco, a parte che ringrazio appunto Graziella, e chi avesse piacere di conoscerla può contattarmi, e sta a Minerbio, anzi a Cade Fabbri, e potremo andarla a trovare insieme. Ecco, io avevo piacere di sapere adesso dalla tarologa che ci ha raggiunto in cucina cosa ne pensa un pochino di quello che è il clima della signora Graziella, cioè come dire, in sintesi, se tu credi che il pensiero abbia effettivamente un potere, quindi possa trasmettersi da una persona all'altra come fosse quasi uno spirito azzurro, che attraverso l'aria avesse questa capacità di passare da una persona all'altra. Ma guarda, che è un po' il principio di Nosfera anche. Dunque, aspetti. Io ho una mia opinione personale in merito, cioè non soltanto penso che ci sia, credo vivamente e fortemente che questo esista. Cioè, l'attitudine pensiero è un'energia che viaggia nell'etere, perché fondamentalmente siamo tutti fatti di energia, e quello che viaggia nell'etere è l'onda di quello che noi siamo, l'onda di quello che noi pensiamo, e quindi essendo che tutto ciò che succede è tutto ciò che noi ci attiriamo e tutto ciò che diamo è ciò che noi siamo, l'influenza pensiero è fortissima, quindi tu riesci ad arrivare a dare a una persona, come nello stesso tempo riesci ad avere da questa persona e dall'universo eventi. Quindi è un discorso molto complesso questo dell'attitudine pensiero, quindi se volevi una mia opinione, un sì o un no, fortemente sì, ci credo, assolutamente. Quindi, banalizzando, se uno pensa intensamente a un qualcosa, o una persona, magari dotata anche quella di una certa sensibilità, secondo te inevitabilmente si crea un contatto? Assolutamente sì. Mm. Assolutamente sì, ed è proprio quello che poi viene chiamato ora, ma che comunque ha origini molto molto più antiche dai libri di Alice Bailey degli anni 70, ma di cui attualmente si parla tanto, di questa legge dell'attrazione di The Secret, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare, e parla proprio di questa attitudine nel chiedere fortemente qualcosa con tutta se stessa, con il pensiero, con il cuore, con la pancia, con le viscere, e inevitabilmente l'universo fa sì che questa cosa accada. Bello. Le altre 19:20 invece cosa ne pensano? Federica, magari prima. Ma mi ha colpito l'affermazione finale della tarologa che asseriva che l'universo fa sì che accada. Ma sono d'accordo con lei nel fatto che effettivamente la volontà, il pensiero, le forze, le onde possano influire. Non mi piace l'idea che sia l'universo a far accadere le cose. Vedo più nella concentrazione, nel desiderio, nell'impegno, nel veicolare le energie e le forze come appunto una determinazione dell'individuo, non tanto un'attrazione nei propri confronti di tutto quello che ci circonda, insomma. Okay. Quindi per te è più l'individuo, il singolo, che comunque ha questa capacità attraverso il proprio pensiero di attrarre e portare a sé un altro singolo, in un certo senso. Sì, vedo nella volontà una delle forze più potenti, poi indubbiamente inserite nel contesto dell'esistenza, però... Credo che appunto volere sia il primo passo verso qualcosa o qualcuno. Ok. Fedra? 19:20 Fedra. Nel sentire parlare di queste cose pensa prepotentemente a quello che in fisica si chiama il campo psi, che sarebbe quell'ambito di ricerca contemporanea che andrebbe a svelare quelli che sono i misteri di quello che comunemente viene chiamato campo unificato, che è un luogo che io devo ancora approfondire, ma mi sto accingendo perché è estremamente interessante e che secondo me ha molto a che vedere con quelle che erano le cose che ci siamo scambiate alla base della noosfera che regge il nostro hotel. Ottimo. Fede? Ma io sono abbastanza d'accordo con Fedra, però pensando a queste cose mi viene in mente un po' la letteratura cyberpunk, specialmente riferendoci a quegli hacker ai fenomeni di approfondimento della rete, del rizoma, come... parola che Fedra ama moltissimo, e quindi come una sorta di immersione in questo universo attraverso questo alto impatto tecnologico che dovrebbe servire a comunicare meglio e a metterci al servizio del pianeta, del cosmo, di tutto un po', quindi come esseri non individui soli eccetera, ma come individui immersi nel sistema, poi che questa si voglia chiamare grande energia, che si voglia chiamare, però credo che l'uomo debba fare i conti con questo. Anche se in realtà, sono di nuovo 19:20 Fedra, questa cosa del volerlo decodificare e scientificamente un po' mi perplime e un po' mi spaventa, nel senso riconoscere che c'è la potenza della contingenza, della densità del mondo e del luogo, del presente, mi piace tanto. Temo un po' proprio perché vedo nelle nuove scienze, nelle semiologie e quindi in queste specializzazioni di linguaggio che vogliono incidere la realtà fino a poterla prendere a bocconcelli e rendere quasi inerte, sì, un po' la problematicità della nostra realtà e della nostra società contemporanea. Ok, Linda? Ma io arriva posso ancora solo vino. Dire ancora vino, ancora Linda. Vino, ancora grazie. Bene. Ancora grazie, grazie. Evviva la cucina! Nulla, io posso solo dire che per me la volontà sì è importante, ma mi rendo anche conto che lo dice una parte di me forse più piccola e più umana, tra virgolette, mentre più in profondità non posso non ammettere che credo e sento in una forza più grande che io non posso dominare o veicolare in nessun modo o cambiare. Indubbiamente cioè, il confronto diciamo è abbastanza ardito, però anche in relazione a quello che dicevano le ragazze bisogna considerare, no, il fatto che lo scibile, cioè la potenzialità umana è soprattutto attraverso la tecnologia, insomma attraverso lo sviluppo a livello mentale, a livello psichico, a livello sensitivo è ridotta all'osso. Quindi Linda, come poter definire quello che è al di fuori di te più potente, se in realtà potrebbe essere una parte di te che però non conosci, che non sei abituata ad utilizzare? Sì, può essere anche una parte di me che non sono abituata ad utilizzare, ma questa parte di me allora che io non sono abituata in quanto umana, sempre tra virgolette, perché non sto a definire cos'è umano, appunto appartiene forse a qualcosa di altro che, a quale io non posso accedere se non in maniera non totale e in alcuni istanti di grazia dal mio punto di vista. È quello che pensa il mio ex. E rapidamente, perché non abbiamo più tempo, e Graziella ci aveva parlato di questi cibi speciali cucinati in un certo modo che aiuterebbero i pensieri. Ecco, per voi qual è un ingrediente, diciamo, della cucina? Parlo una persona che non sa cucinare, ma vabbè. Un ingrediente della cucina che ritenete magico per voi, magico, incantato, cioè che quando lo... è la Madeleine, insomma. Qual è per voi? 19-20 Fede, ne sanno qualcosa i miei coinquilini, però no, vado a periodi, in realtà più che di Madeleine parlo di passioni, adesso la mia passione è l'olio di sesamo. Per me lo zenzero. No, lo volevo dire anch'io. Io ci avrei anche il curry. Vogliamo parlare della curcuma? Scusate. No, io invece non posso fare a meno di drogarmi di riso integrale. Ticana? Anch'io volevo dire zenzero perché mi piace tantissimo questa parola che sa di zen, zenzero e ginger. Così, vado nella letteratura. Comunque, sì, sono d'accordo con la 1920 Federica Falancia, zenzero. Antonella? Rosmarino? Bello. Antonella? Aglio? Antonella. Crisi, non so. Verdure, spezie? No, qualunque cosa. Origano? Cibo. Origano ci piace. Italianissimo. Aglio. Italianissimo. Bene, adesso allora un po' di musica. Forse capiresti meglio che io sono la sola. Ma Bene, qui 19:20 Federica Falancia e ho fatto un inserto ed è un omaggio a Rage Against the Machine. Quindi ho contaminato Mina con quest'altro mio intervento del tutto dedicato a Rage Against the Machine, perché è un duo bolognese Art Noise che ho intervistato qui all'hotel, che gioca in modo allegramente analogico orchestrando umori di varia natura a volumi tendenzialmente molto alti. Utilizzano pedalini, voci campionate e ovviamente macchine da cucire con l'ausilio di vari altri oggetti di uso quotidiano. Il fastidio che si può più spesso generare nell'ascolto delle esibizioni viene stemperato e reso più affrontabile da interventi più o meno performativi che contribuiscono a destabilizzare lo spettatore, come adesso. I live sono molto concitati e brevi e la componente visiva che accompagna l'esibizione è sempre fondamentale per poter cogliere un lieve intento parodistico nei confronti della scena sperimentale noise. Ecco, questa è una esperienza leggermente noise che vi ho voluto far provare ed è un omaggio alle Rage Against the Machine che non sono qua con noi e perciò vi faccio ascoltare quello che ci siamo dette. Rage Against the Machine vuol dire rabbia contro le macchine da cucire. Eccole. Perché proprio una macchina da cucire? Nasce proprio come rabbia nel gioco. Dovevamo fare qualcosa per sfogare qualcosa che avevamo dentro. Dovevamo cercare un modo per esibire delle cose che avevamo represse in qualche modo. E abbiamo deciso di farlo creando un set da esibire live per un festival che si chiama Festival delle Batterie Elettroniche, Gara delle Batterie Elettroniche. Quindi per fare questo ci siamo chiusi in una sala di produzione e abbiamo deciso di utilizzare strumenti della vita quotidiana per fare tanto rumore. La macchina da cucire è stato uno degli oggetti che abbiamo scoperto che il suo suono, abbinato a quello di pedalini, distorsori, geggi vari, no, per la modulazione del suono, rispondeva in qualche modo alle nostre esigenze, perché dimostrava, ricreava una sensazione interiore che ne avevamo noi, un suono industriale, un suono aggressivo, però abbinato a una visione tutt'altro che ortodossa, insomma, la macchina da cucire che fa tanto rumore e qualcuno che la suona, cioè era qualcosa che ci ha molto divertito, ecco. Io so che dopo questa esperienza voi avete girato tantissimo, giusto? Sì, c'è stata una sorta di entusiasmo perché questo progetto un po' così irriverente, no? Ha ricevuto l'entusiasmo anche di altre identità, no? Altri progetti di altre persone in giro per l'Italia che hanno voluto partecipare in qualche modo alla nostra esperienza, invitandoci a suonare con loro, a fare delle cose insieme, a parte i festival che abbiamo organizzato a Bologna, come la Sagra dell'Hard Noise. Abbiamo partecipato all'organizzazione di The Cage, sempre a Bologna. Siamo state invitate a Venezia, a Belluno. Ma ci sono fondi per questi festival o sono tutti autoprodotti? Come funziona? Sono per la maggior parte, almeno per quelli di cui noi abbiamo esperienza, sono assolutamente autofinanziati, almeno per il genere in cui noi siamo inserite, che è abbastanza estremo, ha una nicchia di fedelissimi, però non ha dei seguaci numero tale per cui da meritare dei finanziamenti.

terribile, era un uomo alto 1,90, un personaggio molto molto brusco, però alla fine insomma, mi è servito, no? Mi è servito tantissimo, intanto ho imparato a fare la serie, a fare quella che lavorava sempre, non quella che lavorava così ogni tanto. Sono arrivata qui nell'85 e questo luogo era bellissimo perché era l'unico posto dove non si vedessero case. E io volevo un posto dove non si vedessero, cioè, per me l'importante era vedere solo natura, case non dovevo vederle. Però penso che il luogo valeva la pena, no? Perché aveva questa visione ampia e il sole sorgeva là e tramontava là, per cui io il sole lo vedevo anche di inverno. E ho pensato che c'era questo pezzo di terreno e sarebbe diventato qualcosa di magico. Questo sogno di fare un giardino dove ci fossero fiori e frutti e verdure mescolati, messi insieme, potesse essere un'idea allegra. Ma questa idea della frutta e della verdura e dei fiori era fortissima. Allora ho pensato a un progetto di trasformare questo luogo, ho cominciato a febbraio dell'anno scorso, per cui quasi 2 anni fa. Ho cominciato a vedere la permacultura come un'idea geniale di un signore che è austriaco, si chiama Sepp Holzer, e Holzer ha creato da una montagna, da un pendio di una montagna in Austria, che è abbastanza alto, un territorio meraviglioso utilizzando l'acqua e i cumuli. L'acqua è un elemento importantissimo per Sepp Holzer, dice che sono i laghi che tengono il clima mite. Ma lui è riuscito a 1000 metri a far venire gli agrumi e l'uva, cosa che è rarissima. E lì guardando i suoi video ho pensato di poter fare anche qualcosa del genere, quindi ho terrazzato. È venuta l'idea delle terrazze, poi è venuta l'idea dell'acqua. E l'acqua però non è finita, perché da questa pietra dovrebbe sorgere l'acqua lì. Qua dovrebbero esserci 5 fontanelle delle flauforme steineriane che creano un riciclo di acqua, un gorgogliare, no? In cui l'acqua si espande, si contrae, quindi questa espirazione. E qui proprio verrebbe tutta una serie di cascatelle fino ad arrivare là già riossigenata. Poi i passaggi dei 3 laghi e poi andare in questa pompa che riporta sull'acqua. Questo era il progetto che non ho finito proprio perché comunque è in progress. Poi niente, poi l'idea appunto di far provviste invernali, di non essere sempre dipendente dal supermercato, no? Cioè da crearmi un'autonomia anche dal punto di vista del cibo, per cui pensare anche di produrre cibo sufficiente per potersi autoalimentare senza dover ricorrere a andare per forza a fare la spesa. Io vado a fare la spesa 1 volta a settimana per le cose che, vabbè, tipo il caffè, che l'olio, che qua non produciamo, ma potrei anche pensare insomma di essere abbastanza autosufficiente con un po' di provviste di generi primari. E poi il fatto di avere verdura, frutta e di saperla anche cucinare e conservare, questo è anche importante. E poi di avere le serre, perché io d'inverno mangio solo la mia verdura, no? Quindi tutto quello che vedi qua poi viene messo in serra, conservato in serra per tutto l'inverno. Vabbè, comunque questo è un progetto proprio legato alla mia infanzia, anche perché io sono vissuta in Val di Sori, in un posto a 1000 metri dove c'era una natura molto selvaggia, parliamo degli anni 63, 64, 65, cioè anni in cui non c'era ancora il turismo, non c'era, ma questa natura forte che con queste montagne di 4000 metri, insomma io ero davanti al Cividale, lì ho queste montagne che avevano un aspetto pieno di neve tutto l'anno, quindi con questa idea della montagna proprio anche un po' sacra, no? Un po'. Per esempio questa è una pianta di pomodoro non potata, allora i pomodori di solito bisogna potarli per creare frutto. Io ho pensato, beh, bisogna potarli, chi l'ha detto? Vediamo cosa succede. Cioè, secondo me ha prodotto ed è più sana non potata che potate. Sì. Hanno preso malattie tutte quante quelle potate. Verbasco è quel fiore giallo alto davanti alla serra. Ok. E si possono staccare i fiori così singolarmente, no? Certo. Magari fare delle prove e sì, vedere come. Perché le dahlie no, le dahlie hanno troppa umidità e rischi proprio di marcire, farle marcire.

trappo. Allora, visto che io il trappo lo possiedo, non in quel senso, anch'io. Ma possiedo noi un trappo, anch'io ce l'ho a casa. Se c'è una signora che ha bisogno che gli vado suo figlio, gli vado a mettere a posto la mensola, lui, cioè uno scambio di ore, tu dai un servizio a me, io aiuto te, tu mi aiuti fa venire me. In mente la banca del tempo. La banca del tempo. Torniamo alla e perché comunità le donne femminile. Non fanno cosa questo? Fa questo però uomo che viene a casa tua? Ma anche senza uomo, io aiuto un'altra donna, so fare alcuni servizi e questa donna, io non so cucinare, viene a casa mia a far ragù, io l'amerei. Vabbè, ritornando un attimo alle donne single e a questa che si chiama Merkel. Ve la immaginate la Merkel capo di una girl band? Addirittura rock. Rock. Hardcore. Hardcore. È molto hardcore la Merkel. Pensi, Andy Giovedì, tu che ne sai? Pensi che al festival In the Pink of Rock, dove hai anche quasi partecipato tu quando parteciparono le tette biscottate? Sì, sì, infatti lì fu la prima volta che io fui esattamente sul palco. La prima volta. E ho anche cantato una canzone. Non so che faceva un po'? One, two, three, four. Sono felice, sono felice, sono felice, sono felice. Sfumando un po' questo brano, felice, possiamo capire perché se la sono dimenticata felice, in bagno dopo quel concerto. Felice, sono ed è felice, finita nella piscina della terrazza felice, dello Sfer. Sono felice, sono felice. No, non sfuma. Tu come stai? Sono felice. Abbiamo trovato un altro gruppo. Sono felice, sono felice, sono felice. Per me la Merkel vi scrittura sicuramente. Tu come stai? Visto che è così Giuliva e ride. Ma vabbè, Andy Giovedì, ok, è qui con noi. Però abbiamo una registrazione che ci ha regalato Andy Jo. Te la mia ricordi? Preferita delle tette biscottate. La più bella. Che in occasione del più recente In the Pink of Rock ha intervistato alcune delle rappresentanti rock che c'erano quella serata. Veramente, veramente? Sì, sì, vogliamo sentire che cosa sì, si è. Sì, sì! Il volume c'è? Abbiamo i soliti problemi tecnici quando si cambia la fonte. E anche un percorso. Qui. E cominciamo da capo. La prima domanda è di cosa vi nutrite per la vostra musica e nella vostra vita? Direi tanti tanti ascolti accumulatisi e anche un po' stratificatisi nel corso degli anni, perché non abbiamo più 20 anni come gruppo, nessuno di noi ha più 20 anni da un po', diciamo. E però poi anche un percorso nostro interno, direi, del gruppo, perché non siamo un gruppo come succede spesso le band con musicisti che vanno e che vengono, molto permeabili, no, a quello che succede all'esterno. Siamo un gruppo abbastanza chiuso da quel punto di vista. Nella nostra sala prova entriamo solo noi. Non abbiamo 10.000 amici che vengono, che intervengono, che, quindi è proprio una scelta maturata, cioè una maturazione di gruppo. Noi siamo appassionate di rock and roll, garage, gruppi femminili anni 60. I nostri gruppi preferiti sono i Sonics, i Ramones. Diciamo il nostro genere è un po' quello, e poi appunto ascoltiamo anche molti gruppi femminili, però appunto come dicevo più del passato, soprattutto degli anni 60. Si vede le copertine dei vinili dell'epoca, sono veramente spettacolari, si vede tutte queste donnine messe con tutti i vestitini, insomma sono cose particolari, ecco. Noi ci nutriamo di passione per la musica, è la cosa fondamentale, creare insieme, sviluppare idee, questa è il divertimento, anche la cosa più bella. Poi noi siamo anche 4 amiche e anche questa amicizia, condividere insieme delle esperienze, insomma il collante. Poi diciamo l'amore per la musica, ovviamente per il rock è lo stimolo più bello. Infatti suonare dal vivo è la cosa più importante. Una frase con cui descriveresti il vostro gruppo?